9. Ascolta e controlla. 1. Riuscirebbero a prendere il treno delle 17, ma non hanno il biglietto, quindi aspetteranno il treno successivo. 2. Saremmo contenti di ospitarti a casa nostra. 3. Daremmo volentieri una mano, ma non sappiamo come. 4. Maria saprebbe aiutarti sicuramente, ma ora non è qui. 5. Vorrei fare un regalo a Mario, ma non so che cosa regalargli. 6. Mi scusi, aprirebbe la finestra, per favore? 7. Vorresti cenare con me stasera? 8. Potrebbe ripetere, per favore? Non ho capito bene.